adesso piano piano sento il pio pio basso, ma non, ho, non è comprensibile, dai. Ma non entrare nel mio paese. Perché ma mi senti lì? Ok, dai, ripiglia. Vabbè. Guarda, tu sei 9,5, 39,10, lui supera il 9, figurati, era in macchina, sta andando che era una bomba, vabbè, io al ghero sono molto aperto, ma le persone sono un po' meno. Il mio? Mi ascolti senza interferenze? Ok, vai fra, ci ho parlato sopra qualcuno, chi era? Va, tu sei fra? No, no, non sono io. Tu, sono visto un 9+20, allora era fra, come Franco, Gianni, tu sei? Negativo. Che okay, avanti che vuole entrare, forse qualcuno ha dato un colpo importante, oltre ai 9,20 era qua. Ok, di nuovo a te Franco Di Sosso che farei girare per Franco Binari. Sì, capo, dai, no, sei entrato solo a fare una battuta a Franco. C'è qualcuno che è in altri canali? No, qua non sento nessuno dei Splatter, è abbastanza selettiva questa roba. Di nuovo a te Franco Binari. Ehi capo, sto scendo stasera, sto scendo con 48 e le 25. Liscio? No, mi sto aiutando un pochettino. No, non si sente proprio niente, la radio è molto perfetta, chiara, nessuna compressione, veramente bene, sempre liscio però con un ottimo segnale. Ehi capo, via, adesso sono liscio. Com'è che mi senti lì? No, ti sento ugualmente, leggermente un po' più di corso di QRM, mi sento sotto, ma ti ascolto sempre bene. E capo, allora sto andando bene. Sto uscendo 5 watt e sto uscendo. Questo apparecchio mio forse ne dà una ventina, 15-20 li dà. Capo. Adesso va bene, c'è qualcuno in un altro canale perché mi sta sbattendo a me con 48. Io non sento nessuno, ho provato a salire di un paio di canali, non c'è nessuno qua. Ma qualcuno sta passando qua vicino a me? Non ne ho idea. Gianni Rubofetta l'ha ascoltato a Binario adesso. Sì, adesso l'ultimo passaggio sì. Ciao Franco, buonasera, non so se mi ascolti. Salutiamo l'altro Franco Di Sosso, buonasera. Capa, ciao! Aspetta, ti ha parlato in due, i due Franchi. Avanti Franco più lontano, Franco da Alghero in direzione Sassi. Sì, sono un po' sotto Olmedo adesso. Gianni, un abbraccio anche a lui. Ok, vediamo se è entrato Claudio. Avanti Claudio. Claudio sta girando il porcello. Di nuovo Franco Di Sosso. Ehi capo, dai, saluto Gianni, saluto, che poco fa non ho salutato. Niente, riprendete voi che finisco questo. E io rimango ancora un pochettino, sto aspettando che mi chiamino, dai, di nuovo a te Gianni. Anche io, dai, faccio due o tre passaggi e poi vi devo lasciare. Sì, adesso, vabbè, Franco è oscillante, quindi in barra mobile, anzi, vabbè, già ci siamo capiti. Franco, la sorso, 9+10 qua, oscillante con picchi positivi, vabbè, forse era un po' agganciato, comunque va benissimo. Vediamo se Franco freccia sarda mi copia. Sì, freccia rossa, mi ascolta. Sono un po'... non dico parato, ma sono un po' veloce. Magari mi accompagnate fino a Sassari. Bene, sì, adesso già ti sento meglio. Dai, a che altezza ti trovi? Adesso sono sulle 4 corsie, all'inizio, vicino al rifornitore, dai. Ma Olmedo l'hai superato? Sono sulle 4 corsie al rifornitore proprio, non con la moto che stanno prendendo, no? Quello che c'è sempre stato sulla destra andando a Sassari. Ah, quindi praticamente sei vicino, dai. Più o meno sono più vicino a Olmedo, dai. K, vabbè, adesso già riesco a sentirti e io ho la montagnetta di Monte Oro che mi ostacola, magari se metto la 5 ottavi riesco ad ascoltare e a trasmettere meglio, dai, avanti ieri, vabbè. Ma tu il palo dell'antenna tua quanto è alto già? È piccolino, lo devo comprare, devo andare alla Marcedu, veramente è uno sputo, ci voglio mettere almeno un palo di 4 metri, dai, perché adesso questo è veramente piccolo, non voglio dire stupidaggini, ma sarà... 1,75 e 1,80. Perché per una 58 deve mettere almeno 3 metri di distacco dal terreno. Va, vediamo, dai, non voglio mettere roba troppo complicata, troppo complessa. Vabbè, le staffe già sono belle sicure, però non mi voglio arrabattare, mi hai capito? Quindi qualcosa di leggero e di, come si dice, leggero e funzionale. Leggero e per il vela. Dimmi. Ciao Franco. Ho sentito una portata. Quante orecchie. Chi è stato, Claudio? Eia, per il vela, Cocomane. Non è stato stasera Cocomane? Ehi, tratto un attimino, poi ce n'è andato. Come sempre, dai, l'acqua santa anche lui. Allora, Cocomane numero uno non può trasmettere, che c'è l'antenna piena d'acqua. L'altro Cocomane sta sempre facendo budini. Come piena d'acqua? Ehi, non può trasmettere, no, lo disturbo un attimino, ha rotto le balle, cazzo. Non è buona vita, alleluia, cosa volete vi dire? Bisogna questa estate trovare una soluzione, perché altrimenti abbiamo perso la tattale. Cosa volete vi dica? Sta risolvendo di nuovo, evidentemente l'antenna con l'umidità lo fa entrato e ha fatto le prove, ma disturba manco con due batti, cazzo. Deve metterti la Game Master, una canna da pesca, la mia, ripeto, è attaccata al televisore, non disturba nulla, neanche con 200 watt. Non so, quella è troppo bassa, c'è radiali a terra, lo so. Vabbè, adesso vedremo cosa fare. Sì, sicuramente si accoppia con le antenne, hai visto? Con le antenne della televisione si accoppia. Lo so, poi adesso è il periodo degli amori, quindi anche le antenne stanno accoppiando. E allora, davanti Robè. Dove sei arrivato, Fra? Adesso sono un po' in basso, diciamo, prima di salire verso Monteoro, va, più o meno, in linea d'aria, sempre sulla 4 corsia, sono abbassa adesso. No, sempre quasi 9, non ti ho perso per niente. No. Che voi, caspita, vi sentivo già dentro al ghetto, a parte le scariche, vabbè, delle luci a neon o LED della carrozzia, nella via centrale, del resto vi sentivo sempre bene. Dove sei, Fra? Siamo in direzione la Andriga, dai, però riportato sulla 4 corsie, però. Anche a me 9 è pieno, 9 non te lo fanno. Vabbè, mi sa che mi ritorni lo scettro, perché la torre di controllo sono rimasto io. No, anche io l'ho tenuto 9, comunque mi ascoltavi anche a me, discretamente, dentro Alghero, Franco. Sì, no, ti ascoltavo, l'unico che si è bombato, ma sicuramente stanno facendo un po' più fatte, come sempre, Gianfranco. Lo sentivo a malapena, lo fermo, il movimento poi non lo sentivo. Grazie al telefono un attimo, scusa. Avanti, non bravo. Eia, grazie del passaggio della palla. la prendo al volo. Dai, ragazzi, io vi devo lasciare, vi devo abbandonare per stasera. E niente, grazie delle due chiacchiere. E niente, dai. Salutoni, buona serata, buona carica. Tante cose belle, dai. Ciao Claudio, ciao Franco, in sosso, Roberto e chiunque fosse in ascolto, dai. Buonasera da parte mia e ci sentiamo più avanti. Ciao ciao. Capa, ciao carissimo, alle prossime. Avanti Franco di sotto. Lasciate a voi, forse non mi sente più che sono sotto. Ciao Gianni, ci sentiamo alle prossimine. C'è anche Mirko Dalghero, avanti Mirko, buonasera. Mia caccia, Remi. Andiamo ora, andiamo, caccia. Mia bella bella, mi. Attento, Franco Gardanella. Vabbè, socio. E dove sei? Sto rientrando Dalghero. Ma sei vicino, in zona? Conforama. Ma arrivi a bomba, Fra. Non so se arrivo bene anche io, ma presumo di sì. Sì, vai, segnale non lo vedo, però ti scucio molto bene. 36, mi ha scordato il telefono. No, pensavo che ci fosse Mirko ancora sotto, boh. Un bianco un attimo, mi sto mettendo le mutande. Bianche? Ma cosa bianca, marrò. Con la frenata di bicicletta? Svolta il passeggino. Guarda se c'è ancora Franco di sotto, che non lo sento più da qua. Mi senti se parlo? Poco fa avevo avuto un telefono, non avevo salvatore in mano, non ti ho risposto. Ma è possibile avere sbattere una sassa di Joker? Beh, se ti arrivano forti, sì. Lui, secondo che baracchino è che prende colpi. Tipo, io avevo qualche anno fa il multimode 3, per carità. Col 48 sto uscendo. Ciò sbattere la sassa. Cavolo, adesso cambio radio di nuovo. Sì, il 48 prende colpi. Ah, non ho già visto, fra. Radio dentro, 4 anni dentro l'armadio, e ora giù l'ho attaccato a Sassari io a casa una volta per provarlo e non si intendeva nulla, era muto. Ho detto cosa va la radio, boh, giro canali, tu, e c'era gente sul canale 23, battimento totale, proprio, manco QRM vera. Esce bene di radio, ma ricezione purtroppo prende colpi. Infatti, adesso la cambio. Si sente quello del 23, si sentono qua, 10. Adesso metto il president. Ehi, metti l'altro lì, se ti annunca un baracchino la macchina, fra. Aspetta, mi sembra che voglia uscire il cane fuori, fra. Io tra un po' mi arrivo a casa, se non ci senti saluto adesso, Cla. Roberto, ci sei? Franco, mi senti? Mi sa che Claudio è andato a fare uscire il cane. Franco si è cambiato l'apparecchio. Ho capito, adesso ti sei abbassato un po', sono a Santa Maria. Anche tu ti sei abbassato, un bel po'. Non è che possiamo pretendere. Ah, sì, c'è una sottogazza. Quante volte squillare il telefono, vabbè, bombolo. Allora, a te c'è sotto casa, dove sei? Al cimitero sono, ma sono vivo ancora, amico. Kappa, quella è zona mia, buonasera a tutti, buonasera. Scusate se sono entrato così, dai. Allora, mi posso la doccia, vai, magno. Ok, continuate, scusate, aggiungi che c'è il segnalone, ha dritto, magari. L'alghero. Cazzo, sei quello che la batte la schiena? Antonio Coccomane. Vabbè, Coccomendo. Antonio Bicicchetta, e beh, tu. E allora, avanti, mi lavo e via. Cappa. E ciao, vedi. Ora, stazionari a posto. Già andate, beh, dai. Mi tocca giovedì a lavarmi. Meglio fatti da solo, Bianto, non ti fare lavare da Sara che sei pericoloso tu, Sara non c'è, cosa, adesso la raggiungo tra un po', allo circolo, Gappa, ci stai abbandonando tu, ti stai dando al canto, oramai, Gappa, chi è che vuole entrare? Quello non sai come lo fai, chi se lo fai, guru guru ti guadagni il pane. È schifo, è un bel forte qua. E per poi c'è sempre un giurito della zona vostra, io che è Santiago 3. Ma va che è un bel forte, ma non penso più forte di me, no. Forte, Ehi, Cla, si sa chi è, mio, non è che andava a sei lontano. No, qua è basso, forse sta usando un altro tipo di antenna, non lo so, Santiago 3. A voi che arriva più forte perché è lì. Allora beh, di quella ma arrivi a me, no, qua è forte, è più forte di tutti. Cappa, e si attacco a Gigi, vedi? Oh ragazzi, io sono arrivato, è sgancio, un abbraccio a tutti, avanti Claudio. Ciao Francolini, un abbraccio a tutti voi, saluto Anna e Carlo, ciao, fatti sentire, vai Lugarieri. Ciao Fra, salutoni, buon rientro, buon tutto. Tanto hai visto che pone la volta che è arrivata all'usaio, la bomba da 15, ma un 10 minuti. Io penso non mi viene nemmeno di portare usare un culo tra 10 in faccia. Chi è che vuole entrare? Io non stai uscendo dal radio. Ah bravo che attacco lineare, o mi va a cazzarti con me co. O riesci a andare qua, a me va. Tanto te lo mangi, non lo è crudo qua, ma oggi devi attaccare. Santiago 3, no? Se ci sei dopo, io tanto sto andando a casa, dai, 8:30 arrivo a casa, ciao. Ciao Lugarie, io sono qua, sto guardando la TV. Cappa, dai, io vado a lavarmi, dai, se no non mi capo bene. Ciao, ci sentiamo. Ciao Anto, ciao, ci sentiamo dopo. Franco, tu sei che non stai uscendo di radio. Eia, non stai uscendo di radio, tocca sotto le 60. Tocca sotto il tastino, Franco, non stai uscendo di radio. E adesso lo scendo, sa? Adesso sì. Se tu non mi rimetti le batterie! Ah, non gli avrei rimesso le batterie perché? No, se sento lo stavo usando là, sto adesso l'ho agganciato qua e non c'avevo le batterie, è ovvio che non funziona. Franco. Infatti sono intervenuto un paio di volte anche a salutare a Franco ed era stato importante. E io mi sono accorto, mi sono segnale, no, però tu sei, io non stai uscendo perché l'altro segnale era 3. Sono rientrato. Sì, Roberto. Cosa? Ho detto sì, Roberto. E Franco Binario ancora c'è? No, Franco Binario ha chiuso, doveva far partire il treno. Così è, e allora c'è Franco Di Sorso e Bobbio. Ma come facciamo? 3 Franco, Franco California, Binario e Franco Di Sorso. E più forse. Francia non se ne comprende nulla. Perché se tu li vedi, li metti tutti e 3 in fila, no? Il più alto è Franco Di Sorso, però è il più magro. Poi anzi, partiamo da Franco Califfo. Franco Califfo già è alto, allora è Cicciappello, poi c'è Franco Di Sorso, il più basso è Franco Binario. Come hai saggato nel lungo e corto e il paccioccone? Sono 3 bravi cowboy. Franco, Franco e Ciccio Garcia. Ma Franco Di Sorso ti chiami proprio Franco e il nome attivo qua? No, ma Franco io lo conosco. Franco Franco, sì, o Gianfranco. No, Francesco. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero, Francesco, Francesco, sì, sì, sì, sì. Ah, mi sono dimenticato, c'è un altro Francesco, quello di Usilo. Sono tutti Francesco, Franco e Francesco. Francesco di Usilo, non si è più inteso. Non lo sapere se aveva preso l'antenna, se aveva bisogno di una mano, se si era messo d'accordo con Frisaro, se aveva messo le batterie all'MC60, è parito. Ma perché si è preso l'MC60 Franco di coso, di Usilo? Franco di Usilo lo sta usando, Francesco di Usilo lo sta usando, la stessa radio, lo stesso microfono lo sta usando, adesso Franco di Sorso. Praticamente l'MC60 abbinata al Presidente Lincoln con le batterie dentro. Al Presidente Lincoln, addirittura. Perché non si può fare, tutto si può fare. Quando fai l'adattatore, metti le batterie al 60, avevo un microfono preamplificato come tutti gli altri. Vai, Franco. Sì. Senti adesso, mi ha selezionato come ho toccato coso, il coso del microfono per girare i canali, ha selezionato, è partita la raffica, la frequenza. Se tu che sì, lo senti, lui sta usando un MC60 col Presidente Lincoln. Ha alimentato a quanti volt? Niente, 2 batterie da 1,5. E riesce a funzionare, cazzo, 60 è bello. Ma non l'hai mai aperto l'MC60, l'MC60 è fornito da quando è stato costruito con la sella e batteria all'interno, 2 stilo da 1,5, ok? E servono per usare l'MC60 dove tu non lo usi con l'alimentazione diretta dalla radio. Vabbè, il vostro è il vostro, il mio è diverso. Il tuo se lo apri c'è la sella e batteria lo stesso. Non lo so, non l'ho mai aperto, ma non c'è un interruttore, infatti lì dove... Ah sì sì, ne ha 2 di interruttore, sì sì, c'è là sopra l'interruttore. Cosa non c'è l'interruttore? Il tuo c'è l'alimentazione al circuito di preamplificazione diretto, perché è un primo modello e poi ho volato io. Gli altri che hanno fatto hanno messo questo cazzo di interruttorino che inserisce e disinserisce la preamplificazione. Però la sede batterie, la sede piccolina delle batterie, ce l'hai anche tu all'interno. No, è impossibile che non ce l'hai. Perché tutti gli MC60 sono nati con la sede batterie per usarli nelle radio che non sono alimentate a 8 volts. Non lo so, quando ho tempo me lo guardo solo per curiosità. Ok, vediamo se c'è qualcuno ancora su 10 che vuole entrare. Gianfranco si era allontanato, vediamo se c'è ancora. Gianfranco ogni tanto sparisce. O va a caccia di gatti la notte, blu. Vai Franco. Ecco. Capito, va bene. Ma perché silenzioso qua? Non ne correme né nulla, per forza. Avevo inserito lo squarcio automatico. Al presidente, presidente, ma un bel baracchino. No, ya, va bene, va bene. Almeno non lo sento rumori. Lo sento, però ascolto a tutti lo stesso. Non avevi un bel più forte il ballo del gatto. Vabbè. No, aspetta. È così. Sono la radio, adesso sono la radio, così. Sono 10 watt, dai, modulati. Sentiamo 7, avevi così, agganciato sì, 9 più 5. terra, già va bene, in Abuja, già funziona allora l'amico Fritz, ecco qua. Ah, dove funziona? C9 col K, comunque questo C9P5 vuol dire che dà più watt, normale, vai roba. Ma cos'è, un valvolare o un transistorizzato? No, è un 747, quello piccolino. Che cambia, ti migliora tanto la... Quanti watt dà con la cosa lì? Una 50, 80, quante ne ha? Ma è dato per 100, però lo stesso quelli lì, però un'ottantina te li dà. No, no, arrivi benissimo, forte, è chiaro. Tutti, vediamo se c'è qualcuno che entra qua, su 10 sono ripresi tu Claudio, avanti 10. E ciao Mirko anche a te, compagnia mia di Franco D'Assorso e Claudio Torre di Controllo. Avanti Claudio. Ciao Mirko, scusa, sei entrato poco fa, ma io ho mascherato il telefono, sono andato a rispondere. Era solito rompere i coglioni del call center, capito? Che non sanno cosa fare, cazzo, la sera. Se ti ammazzano l'ora di pranzo, l'ora di cena, quando sei coricato, ma vai, non va male, vai. Poi adesso non si distinguono più, perché c'hanno tutti i numeri di telefono, quindi vedi un 347, un 348, capito? E non distingue magari qualcuno che non ha memoria, e invece sono loro con questi cazzo di telefonini. Vaffanculo. Ciao Mirko, buonasera, ben sentito, riprende e fai girare. Sono dei rompimenti di palle veramente, guarda, perché prima facevano 02, 011, 06, adesso c'hanno tutti i numeri privati, numeri di telefono, telefonini, e quindi no, rispondi, capito, tutto qua. Vai Roberto. Ormai, ma sai, tu finché ce l'hai vicino, ma a me mi capita in officina, cacchio, che devo scattare, metto a correre sono questi imbecilli. Infatti io, man mano che telefono li blocco, man mano che telefono li blocco, ma ne hanno centinaia di numeri, capito? Quindi continuano a chiamare. L'altro giorno uno gli avevo detto, mamma mia, se, guarda, c'era vicino qua, ero bello rilasciato nel divano, squillo al telefono che mia figlia era al lavoro, vabbè, mia moglie era sdraiata lo stesso, ho detto boh, sarà qualcuno, vediamo, vado a rispondere. E se poi sono tutti rumeni, polacchi, tutti esteri, capite? Buonasera, signor Marti, lei è del lavoro, ma vai a fanculo, l'hai detto. Buonasì andare in affanculo, gli ho preso il telefono. Adesso poi quelli più antipatici quando sono le voci registrate, Vodafone, se lei vuole entrare, la voce registrata, almeno la voce vera. Ah, altri qua che non viene bene a dirlo, non hanno rispetto per me, poi glielo dico, ma a me non serve niente, internet io non ne ho, non mi vola internet, lei promette che mamma è non ammara due internet. Ah, ho messo in casa dove ero, e addirittura sarebbe buono a farti furruggiare la ganna, Marco. Ma sono di una, guarda, boh, veramente, allucinante, allucinante. Se tu chiami l'operatore Vola, fai così gentile dall'Italia, ti spiega tutto, io da poco non gli avevo avuto un problema, chiamato, la Windy 3, spiegato, fatto, sì. Tu dici che chiamano dai call center, sono una cosa allucinante, per forza ti devono vendere il prodotto. Ma se a me non mi serve un prodotto, vai in ora Mara, vai fra. Capo, ciao Mirko, non so se mi ascolti lì ad Alghero, però ci provo lo stesso. Ciao Mirko, ben ascoltato, dai, Franco D'Assorso. Capo, allora arrivo anche ad Alghero. Bene, Claudio. Mirko è, a parte il fatto che fuori Alghero, in campagna, c'è una bella zona, è aperto per Sassari, però e qua arriva 9, Mirko, figurati tu, è una bomba, arriva benissimo, Franco era in macchina, quindi è chiaro che è un po' più di difficoltà. Voilà, e io ci arrivo a Sorcio. E all'angolo d'entrata solo arrivi tu. Ah, così è. Buonasera, comunque, buonasera, dai. Io sto ancora un pochettino e poi smetto, va. Ok, ciao Antonio. Buonasera, buonasera. Ah, come hai sentito? Capo, buonasera Robè. Vai Mirko. Buonasera anche a te Mirko. Eh beh Mirko, sei riuscito a mettere a posto quel 757? LCD, quindi c'ha il display LCD, quindi attenzione, sono degli ottimi prodotti veramente fatti con qualità di costruttiva. Ok, vai Claudio. Sì, lo conosco, è un bel pezzo quello, un bel pezzo, mettetelo a posto, tienitelo perché è un bel pezzo. Va bene signori, dai, io lascio tutto acceso, però mi allontano, vado a mangiare un boccone, se ci siete dopo, altrimenti ritenetevi tutti salutati. Circolarmente vi saluto e vado a cenare, avanti Franco. Ehi K, a proposito Claudio, quella antenna che stavamo parlando poco fa, va bene, quella 5 ottavi, quando, siccome non la vendono in Italia, la portano là fuori, e costa 35 euro solo a spedirla, compreso l'antenna viene 95 euro le viene, e non conviene comprare un'altra antenna più buona. No, ma Franco, l'hai ordinata davanti a me, no, l'ho ordinata dopo, adesso non mi ricordo chi è che ce l'ha, là, stava parlando poco fra Gianello Groffetta, e costa la 5 ottavi 51 euro, e quella un quarto d'onda costa 44 euro. Ma guardate, sì, già costa così, però c'è l'espedizione molto alta, l'ha guardata quella? No, stavo guardando, cos'era, Obi Radio, cos'era, boh. Ah, Franco non l'ha ordinata da fuori all'estero, Franco l'ha ordinata in Italia, e mi pare che ha pagato 2 euro di spedizione, quindi 0, boh. Ah, boh, non lo so, no. Qui non ne trovo neanche una in Italia, sono tutte all'estero, insomma. E ci sono da 35 in su, qualcuna è più alta di prezzo ed è più basso la spedizione, se no è sempre quello, però il prezzo è sempre quello. Fra, non lo so, io so che Franco California l'ha ordinata qua in Italia ed è arrivata anche in 3 giorni, non so. Non so cosa dirti, poi magari se sentiamo lui lo chiediamo. Va bene, dai Roberto, il cambio per te, fai girare, io vado a pappare, a dopo. Ciao Claudio, buon tutto, buona carica, io rimango ancora un pochettino, poi non la giocare, sono un po' stanco anche io. Vai Mirko per Claudio. Allora, ti auguro anche a te una buona cena, buon tutto Mirko. Vai Franco. Ok, dai. Ciao K. Claudio, buona cena, buon tutto. Ciao Mirko, e ciao anche a te. Vabbè, me ne vado anche a mangiare che mi stanno chiamando. Ci sentiamo magari, se non ci siete più tardi, alle prossimine. Ciao ciao, buonanotte. E anche a te, ciao Franco, ben sentito, buona cena. Io ho già mangiato qualcosa, veloce, non è che avrò tanta fame, ho mangiato a pranzo abbondante. Ok, vediamo su 10 se c'è qualcuno qua. Hola, attenzione, 10, già Franco ci sei? Attenzione 10, c'è qualcuno? Vabbè, io tengo acceso nel frattempo senza qualcuno. Hola? Andiamo bene, andiamo. Claudio, ci sei? Claudio, credo che sei andato a mangiare. È vero, beh, avevo già cenato. E anche io ho mangiato roba veloce. E anche la me, ho mangiato 5 bastoncini di Pintus e cavolfiori. Mamma mia, cavolfiori manca a vedere, sarebbe far più senso di tutto. No, ha fatto a suo fugato, come si dice in Sassarese, non mi piace, cioè, non mi piace, mi piace, ma rimane solo lo stomaco. Poi c'è fatto così bollito, con la panna di olio e proprio una puntina d'aceto, sì, lo mangio volentieri. No, solo l'odore a me, vabbè, è una cosa che è proprio tra cipolla bollita e cavolfiori sono le cose che se mi vuoi far vomitare quelle due cose. Beh, cipolla bollita manca a me, non la mangio, la mangio tipo adesso la cipolla nel fainè, capito? Quello sì, oppure con le uova. Sì, infatti la cipolla meglio la mangio nelle uova fritte, nella frittata, nella fainè, in tutti i puzzi, anche nel panino, quelle soprattutto se sono quelle cipolline, quelle tipo selvatiche, quelle lunghe. Però se tu mi fai vedere come mettono nel brodo la cipolla, se la mangiano a mozzi, vabbè. Ma così a me piace. Io poi tutta la roba bollita, brudi, tutte quelle cose, neanche a vederle proprio, ma io posso mangiare le patate bollite, le carottine, quelle cose lì, ma non mi dire altre cose, ma vabbè. Le patate bollite, vabbè, non è che manca a me, mi piace assare, le carote sì. No, la patata già le mangio, ci metti un po' di olio, l'aceto ti metti, però non mi far vedere né cipolla, né sedano, bolliti, guardate i bolsoni, tutte quelle cose di cavolfiori, vabbè. Senti, vabbè, se vuoi fare roba, c'è gente che la mangia senza problemi. Ho mandato un messaggio a un amico, non so come mi ha risposto. Aspetta che faccio una chiamata un attimo, Robè, scusa un attimo. Sì, intanto vorrei che ci faccio una chiamata qua, se qualcuno vuole entrare su questo canale, attenzione 10 vuole entrare. Nessuno vuole entrare. Beh, già fa, fuggito del poco fa. Impegni. Qui adesso mi avvicino il telefono, c'è anche su, ed è solo dall'altra stanza, scusa un attimo. Sì, ecco, metta che non riuscivo a trovare, va, sparito. Già fa. No, sì. Stavo pensando una cosa. Non sei andato a cena? Sì, ma roba veloce, ho mangiato abbondante a pranzo, non è che ne avevo molta di fame, roba velocissima, poi un frutto, una bella mela. Vediamo un po', io sto sempre ficcando, destra, sinistra. Sempre macinando. Oggi c'ho il QRM a Pucci, in questo momento basso rispetto al solito, non capisco da cosa dipenda, ce l'ho a 5, se no è sempre 7 qua, 6-7, di poco fa quando c'era quello di Alghero, coso, come si chiama, Franco d'Alghero, lo sentivo in mezzo al QRM, proprio a momenti sì e a momenti no, ma adesso 5, stranamente, chissà da cosa dipende questo problema qua. Sì, queste tante cose, che strano. Ecco qua, facciamo il volume, mettiamo gli occhiali e vediamo un po'. Tu quegli eliminatori di QRM digitale non li hai mai provati? No, cosa mai faccio? Io ce li ho già incorporati nella radio e fanno una bella differenza, ti dico. Vabbè, ma quando ce l'hai regolabile tu, è una cosa esterna che si mette e ti attenua il coso, ti toglie, ti pulisce il segnale, come si chiama, ti toglie quella banda di frequenza di fruscio e ti tiene solo in evidenza quello che ti interessa. Poi, insomma, che lascia il tempo che trova. io sono per farti spendere un po' di soldi. Io ho già tutto quello che serve per... Guarda la differenza, te la faccio sentire proprio quella. Un facsimile, guarda. Così è tutta messa male. Sentito il CRM come è sparito? Sì, sì, no, ma questo lavora in un sistema completamente diverso dal classico filtro che puoi avere tu in tutta la... Tipo quando metti un equalizzatore parametrico in un brano musicale, tu vuoi eliminare quello strumento, lavori su quell'equalizzazione lì e ti toglie quella banda di frequenza. E questo c'ha lo stesso principio. C'è tipo un'equalizzazione che ti aumenta e ti toglie quel, cioè ti aumenta. Ti aumenta il segnale, diciamo, quello pulito che ti interessa, la voce, e ti toglie tutta la sporcizia che c'è vicino in un modo digitale. C'è anche quello, ma chi l'ha mai usato? Cosa ne fai? Capito? Sono cose che per chi va da una stazione all'altra non posso pensare. Ma a me magari vuoi ascoltare una cosa lontano, a me guarda, io ti posso dire di tutte le cose che mi piace, quello che mi dà più soddisfazione è quando tu riesci ad ascoltare una cosa che altri hanno difficoltà. Idem lo facevo con i satelliti, io mi potevo vantare di quello col mio impianto che avevo, ormai adesso è tutto digitale e ti stanchi pure a cercare, ma prima quando riuscivo a agganciare quel satellite israeliano Amos oppure un satellite molto spostato che dovevi fare un sacco di cose per cercare di tirarlo fuori, quella era la soddisfazione mia, dice che tu sei riuscito a prendere quello lì e qua io non ci sono riuscito, per dire. Così a me la piacere mio è quando vedi tu con un apparato riesci ad agganciare, non sei mio, ho ascoltato la Libia, questo segnale che è arrivato qua dalla Libia, per fare un esempio, e io sono riuscito a quella, la più grande soddisfazione. Lo so. Io di lì ci sto lavorando perché devo invece da completare la stazione satellitare. Domani ne devo prendere due LND e chissà che riesca l'esperimento. Abbastanza facile, devo dire, quasi elementare, di ricevere il satellite, quello nuovo che hanno messo i radioamatori su qualcosa Dubai, una cosa del genere, insomma, un satellite degli Emirati, ma a Zanzara. Questa non vogliamo mai. Quello Catariota, quel satellite è Catariota, no, ripeti. Quel satellite è Catariota dove tutti i radioamatori si appoggiano. Più o meno sì. Non lo so se si chiama Catariota. Il satellite per più che c'è un altro nome, loro c'è un piccolo payload, hanno messo per il... No, non è possibile. Aspetta, c'è una zanzara e tutti non ho voglia di svegliarmi alle 2 del mattino con una zanzara. Ehi, c'è la Luca del Monte, ci sta ancora Luca? Sì, sta aspettando, che stiamo portando roba, ma la televisione vedo sistema di connettore dell'antenna. Vedi, lì sono non bravo, bravissimo. Devi sistemare le reti. Il connettore dell'antenna a pentoloni del televisore, della scheda, no? E questo c'è l'ingresso dell'antenna. Cioè, non ho capito, devi sistemare un connettore dell'antenna a pentoloni, non ho capito. Ho detto, c'è questo televisore, c'ha il connettore dell'antenna a pentoloni, dove tu vai a inserire lo spinotto dell'antenna. Ah, no, già ho capito bene. E lì sono un mostro, sono bravissimo, non è per vantarmi, ma sono veramente bravo ad aggiustarlo. Vediamo se la zanzara è deceduta di Gianfranco. Gianfranco si è andato a ammazzare zanzare. Mi piace troppo, a me fai che cosi, troppo roba. Mi prendo l'appento, ci metto un po', qualche oretta così, un paio d'ore, dai. Ma vado con calma, Luca, Franco California, gli ho detto a fare riferimento a te per quell'affare di quelle lezioni di quella patente. Ehi. Mandagli quel coso, quel sito che ti ho dato. Sì, sì. Ma vi conoscete con Franco, sì? Sì, diciamo, non benissimo, però è venuto in officina a tempo fa, poi è capitato da poco con Claudio. Aspetta che metto. E gavrua. sono tutta una chat, ma scariche, boh. Invece guarda, io adesso già da un'oretta posso dire che il cuore mio raramente l'ho visto a 5 con questo apparato qua, perché è sempre 7, minimo 6-7. Oggi, poco fa, e quando c'era coso, Franco di Binario Larghiero era a 7, lo tiravo malissimo, perché lui era intorno a 7. Adesso è 5, per cui se c'è un segnale anche basso, riesco a tirarlo fuori. Vuole dargli lì, Robio, quello è meglio, questo ti tira tutto quanto anche la mondezza, però c'ha di buono che è molto molto sensibile. Guarda, io ho anche l'altra radio, quella grande, molto ma molto più grossa, e ti posso dire anche questa c'era da fare rispetto all'altra, non vedo una grossissima differenza. Ho capito, sì, vabbè, poi quelle radio lì sono un po', sono, come si dice, si portano appresso molte cose, tutto quello che c'è nell'aria. Sono molto sensibili e selettive, soprattutto molto, diciamo, sanno quello del mono. Il grande, cioè il mono, che quello è molto più silenzioso, non senti il fruscio, il QRM, per dire, lo senti molto molto di meno. Però quando riesco a agganciare con questo, col 44, l'altro magari lo senti un po' meglio, meno fruscio, però ti posso dire non c'è tutta questa differenza. Infatti volevo dire selettive, sì. Beh, vabbè, io c'avevo 140, cazzo mia, nuovo mese di pacca. E questo qua era dell'anno, mi sembra un po' di uccidi di frequenza. Ma dammi ricordo che l'avevi preso un periodo. Ma già uccidi, dai. Mi sembra uno scudista, roba. Niente alcol, acqua e qualche succo ogni tanto. Infatti due stamattina me ne sono bevuto. Sono andato a vedere un lavoro. L'ho mangiato. La manna era. C'era una data 15 kg. Io c'era questa zanzara che quando devi ammazzare solo la notte e rompere. Ora è fastidioso dormi la notte quando ti senti. No, vabbè, adesso no, ma d'estate, cavolo, sei fastidioso. Adesso facendo anche le cannucce biodegradabili. Stai facendo? Adesso stavo facendo anche le cannucce biodegradabili. Che cagate, guarda, perde il gusto del succo di frutta, quelli con la cannuccia, guarda, e di fresco non riesco più a sentire, perché ti senti la carta, prima invece era più meno sensibile, cioè quando prendevi solo il gusto del cuore, adesso prendi il gusto della carta. Adesso vuoi fare. Poi fine settimana ho bevuto un po' di aranciata, e vabbè, la birra l'ha messa da parte, tu birra non ne bevi, vabbè, no. Sì che la bevo, ma non è che mi imbriagheggio la birra, io bevo perché mi piace berla, non è, io conosco gente, amici, che loro non bevono acqua, si dissetano con la birra. E io d'estate, lui, acqua poca, birra non molta, poi mi dissetano con la birra, poi quando c'è caldo, che male stai mangiando, adesso una pizza, una bella birra fresca, oppure male stai assaggiando, adesso, qualsiasi cosa, un panino, male c'è il ketchup, piccante, così, la birra ci sta da Dio. Sì, però io non ci riesco a bere come la bevi con l'acqua. Io ho amici, ti ripeto, che la bevono come l'acqua. Cioè tu magari vai al bar, c'è il sette, di cosa loro dammi due birre e si vede due bicchieri di birra, anziché berci un bicchiere d'acqua. Io non la sostituisco con niente l'acqua, ma neanche con la gazzosa, se mi dici un succo di frutta, solo l'acqua con l'acqua e buffa. Beh, certo che sì. C'è gente che beve solo birra e cazzo, poi fa pisciare un bel. Guarda, io ho visto un tipo davanti a me che sono rimasto a bocca aperta, la mattina presto al bar, la bottiglia è chinusa, si porta la bottiglia di chinusa, se l'ha bevuta tutta di un sorso, come ha bevuto quella se l'ha bevuta un'altra dopo, io sono rimasto a bocca aperta, di mattina presto. E beh, ti credo. No, mattina presto no, per carità. Io c'ho un mio amico, vabbè, purtroppo è deceduto. Lui la mattina, non sono andato in campeggio, la mattina a colazione, cappuccino, caffè, pasta e due birra. A ricetta gli mandavano birra, infatti poi ce n'è morto. Poi era carrozziere mio, se l'hai conosciuto, Alessandro Secchi. Boh, di nome non mi dice niente, aspetta, è diventato Gianfranco, ci sei Gianfranco? Ma l'alcol bisogna stare attenti, bisogna saper bene, Luca, a chi vedete che i bisogni così per farsi splendido, e poi dopo qualche anno te lo trovi ricoverato. Ma infatti io lo bevo così, compagnia, ci sta anche, no, lo fa a pezzi, no? Io conosco gente che ci dà il gabbo. Niente, ho avuto anche parenti stretti da parte di mio padre, che quelli erano mezzo alcolizzati. E poi da grande te ne accorgi. Infatti, come hai detto, bisogna andarci piano, perché fa male. Guarda, io ho parlato con un medico, un amico di famiglia, quelli che dicono che ne tengono di più, quelli sono quelli più soggetti a coso, a problemi di coso, di come si chiama, di cirrosi, perché dire io bevo la coso, arrivo a un certo punto non ne bevo più perché non mi piace, quelli che dicono mangio una gascia di birra, non ho sentito niente, ha detto quelli sono quelli più soggetti a coso, perché l'organismo non ti avvisa, mentre a me per dire mi avvisa, mi dice occhio che stai andando oltre, inizia a girarti il gabbo e cosa, quelli che bevono quattro bottiglie e rimangono belli e freschi, quelli sono i più pericolosi di tutti, soggetti a coso, a malattie molto molto grave, perché l'organismo non ti avvisa. Sì, no, io lo stesso, Robe, io arrivo a un tot, ma a me già, come mi arriva un po' di mal di testa, capogiro così, oh, mi fermo, non bevo più. No, io mi sono sempre fermato, a parte non sono bevitore, mi sono sempre fermato a un limite, a parte che a me una cosa deve bere con piacere, ne posso bere uno o dieci, però sino a avere il momento di piacere, bere per buttarcela dentro e ingurgitare roba dentro senza coso, assolutamente no. Infatti si beve con piacere, esatto, è così. Il cattone ti sei trovato la bagassa, si è scorreggiato il cane, la matta di nilvaria, mamma mia, poi fate un fiato, ne avevo uno io, mamma mia, che puzza che faceva, ma non in casa, in officina, ogni tanto, buh. Ok, vediamo Gianfranco. Eccomi qua. Scusa Gianfranco, dicevo Roberto, questo mio amico, cosa faceva? Si crepava, ma aveva di tutto, mica, aveva di whisky, mirto, ma di whisky proprio no, mirto, cosa pesante, limoncino, birra a ruota. Cioè, non mangiava poco, non mangiava, beveva solo, beveva e fumava, poi ne vomitava gli occhi, e ne faceva, non è che si metteva a riposo, no? Ribeveva da torna a capo. Vabbè. Poi se ne è morto, c'aveva 42 anni, 43 anni. Contento lui. Ok, vai già fra. No, non era una tontata, era una di quelle sue mosche che entrano per ripararsi. Ma ci ha guadagnato una scarica di qualche migliaio di volte. Ah, è fulminato. Allora, io ho quella racchetta, non so se ce l'avete pure voi per ammazzare le mosche. Con quella. Sì. Strage faccio con quella, strage. Ammazzo, poi la mette in treno, la brucio, la carbonizza. Infatti, è quella che anche uso. Assassine, che ha salato tutti con le mani, si sente la scossa. Io non ci ho provato, se ci puoi provare tu. No, non lo so, sto dicendo, io non l'ho mai vista. Cioè l'ho vista, sì, ma mai provata. Tu Luca l'hai mai provata? Per sbaglio sì, ma ha cancato la mano. Ah, così forte? Sì. Cosa è successo? Cellulare da 20 watt di potenza. È tipo quelli della volta che te li mettevi in macchina che c'erano 5 watt, mi sembra che c'era la ricetta dietro e la cornetta grande quanto un coso, un citofono di casa che pesava un chilo e mezzo. Non mi ricordo più come funziona una cosa. Sta cercando di farlo funzionare. Lasciamo un attimo il bianco, vediamo chi vuole entrare nel frattempo. Sezione su 10, chi vuole entrare? Nisba, ok, sto aspettando sempre il nominativo, io speriamo me lo diano quanto prima, e che sia anche bello da dire, è facile da dire soprattutto, che non ci sia una tipo York o cosa del genere. Mannaggia. Anche per domani è confermato l'allerta. Ma quella no, domani non piove. Così avevamo detto, non ricordo dove, non piove. Si è incazzato solo una volta. In Sicilia invece sono beccato una tromba d'aria micidiale. Sì, magari in zona, no, zona nostra domani, non dove, almeno a memoria sto guardando, non c'è niente di preoccupante. Forse qualche schizzetto, però niente di preoccupante. Una carrialità, no, cacchio, ho visto la massa temporalesca, hanno fatto vedere non so quanti fulmini sono caduti sud vicino al lago di Cagliari, che si vedevano da Poetto, non so quanti, non so se migliaia o centinaia di fulmini, una cosa spaventosa. Anche quello. Non ho capito perché. Caspita, non vedo il fondo. Calma. Sto cercando di... Vabbè. No, domani fa qualche schizzetto di acqua intorno a mezzogiorno, niente di più. E allora mi sto preoccupando. Quando la gente dice così, cosa sarà lì? No, ti posso dire, questo programma che ho io è molto molto preciso, il tasso di errore è molto molto limitato. Giovedì invece è buona la giornata, ci sono 18 gradi e non piove. Ogni tanto ce n'è una, è veramente a volte una rottura che rubi, ragazzi. Comunque dice ti ascoltava piccolino ad Alghero, però ti ascoltava, a me a caso ci ascoltava abbastanza bene Franco Binari, anche a te ti tirava fuori Gianfranco. Non lo so, io sto andando con due vasche, quindi soprattutto che anzi fa anche normale che non mi ascoltassi. Mi sono fissato, credo, ascoltare di nuovo una radio e non me lo fa ascoltare. Perché ce n'è qua? Stai ascoltando una radio in particolare o che cosa? No, una in particolare. No, aspetta, però devo mettermi l'antenna, forse spero di... ecco qua, spero di non bruciarmi l'apparato. Stavo dicendo, quel satellite Inmarsat trasmette anche in coso, lo possiamo ricevere anche in coso, in antenna normale. Domani, magari. Se riceverlo solo via computer lo puoi ricevere. Ho un tramite ricevitore, lavora a 1520, quindi c'è anche una frequenza, diciamo, terrestre, chiamiamola, no? In che senso terrestre? Anziché riceverlo via satellite, c'è qualche stazione di terra che lo ripete quel segnale? No, se da satellite, però satellite serve per le comunicazioni digitali e marittime, sia telefoniche, che sono tutte criptate ovviamente, sia però dei bollettini meteo col sistema anche lì dell'HF, eccetera eccetera. Perché questo amico l'Inmarsat lo riceveva via cosa? Via antenna terrestre? Sì, esatto. E con quelle cose che abbiamo messo, che mi hai messo tu, si può ricevere? No, sono dei programmi particolari, mi sa che sono anche a pagamento alcuni, anzi uno sicuramente sì, però sono fatte tante cose, dai. Allora, lui c'aveva questo apparato di bordo, non mi ricordo se era di che marca era, sinceramente non mi viene, forse era la Motorola, lui c'aveva il bollettino meteo da Inmarsat, c'aveva il monitor e poi c'erano tutte le informazioni, come me le fate vedere tu, tutte quelle videoscritture. Sì, esatto. Lasciamo fare. Che se non è solo. Ecco, ti volevo far ascoltare una cosa, aspetta, se questa. Sì, vediamo se c'è Luca, fratello. Sì, vabbè, sono impegnato, sono qua comunque. Sì, lasciamo qua, rimango ancora un pochettino e poi... Allora, ti faccio ascoltare, quindi come devo fare adesso? Devo staccare di qua, montare lì e regolare là. Ti mando una trasmissione che è a 3950, dalle un controllo di radio, la BBC inglese del mattino. A 3950 kHz? Sì, sì, solo che in digitale. Te la sto mandando. Non ho capito, scusa Giafra, me la stai ripetendo qua in 27 o devo andare a 3950? Giafra? Mi sei girato il canale. Robert, hai sentito qualcosa? Non ho capito se me la devo ascoltare a 3950 o me la rimandi tu. No, te la sto mandando io, solo che come ho premuto l'affare deve essere spostato di un canale e te la rimando. Fritz, les déclarations des États-Unis. Washington accuse la Russie d'avoir mis en danger l'équipage de la Station Spatiale Internationale. La destruction de ce satellite a en effet généré un nuage de débris. Et les 7 personnes qui se trouvaient à bord de l'ISS ont dû se réfugier provisoirement dans leur vaisseau. Pour réaliser ce tir, la Russie... Ecco, alors... L'hai ricevuta ora? Cos'è? France International o che cos'è? Dunque sono 3964 ed è in DMR, DRM, Digital Radio Mondiale, ma arriva a 9910, è in digitale, quindi tu non la puoi sentire se non metti un programma particolare. Quello che ti volevo dire parlando di questi programmi che a me mi interessano molto, con quello che abbiamo installato li posso decifrare? Sì, questo però ancora non sono installato, che è fornito dall'agenzia per fare questa cosa, questa funzione, però non è, perché non mi esce la sigla? Ah, questa è Radio France, ecco perché Radio France International. Siccome manda anche il messaggio, no? Sperimentale DRM par TDF di cui ISSUD1N, non so se sia stereo o mono. Ottima la qualità, infatti io l'ho detto, questo mi sembra Radio France International, è molto molto pulita la qualità, pulita come si chiama, anche come emissione, oltre che la voce era esente da DSU, in digitale, in cosa, cos'era, che modulazione aveva, in USB o AM normale? No, no, questo è proprio digitale puro, è proprio lo standard DRM, infatti per lì mi ricordo che il 2000 era lo stesso formidabile per la decodifica, dove prende la frequenza intermedia che nel TS2000 è a 12,5, uguale a quella della scheda audio, quindi facevi un collegamento diretto a tuo rischio e pericolo, sapendo dove mettere le mani ovviamente, isolandolo col solito condensatore, e portavi il tutto direttamente senza interruzioni alla scheda audio, nella parte audio line. Dopodiché il programma pensava lui a decifrare, ha dato il messaggio, eccetera, io attualmente lo sto ricevendo con l'Excalibur che è praticamente diretto, no? È nativo per questi sistemi. Ma con quella chiavettina che mi hai dato tu, qual è quel dovrebbe riuscire a codificarlo, a decodificarlo quel tipo di segnale? Non dipende tanto dalla chiavetta quanto dalla potenza, diciamo, del computer, perché qua deve fare un po' di lavoro. Poi poco fa mi hai parlato, tu devi mettere e montare due convertitori per la parabola, così hai detto? Sì, convertitori nuovi, quelli APLL, ne utilizzerò solo uno ovviamente, l'altro mi servette da, per rimettere in sesto la parabola che c'era tutti gialli, tutti messi male. E quindi lo dovrò puntare a quanto era 26 gradi, credo, una cosa del genere. 26 gradi in modo da, da ricevere su 10 giga.